Canzoni più belle, col coraggio di 1000, 2000, 3000 penne, porta in grembo in seno il don che dall'oro fa. Al sereno poeta.